Domenica scorsa mi imbatto in Mara Venier. Deve essere lì che affoga nei suoi antitraspiranti da ore e dice di averci 20 milioni da regalare a chi risponde alla sua telefonata. Compone numeri in diretta davanti a noi spettatori, debitamente tele, ovvero sia lontani, e nessuno risponde. Un numero occupato, un altro pure, quell'altro suona libero. Il tempo passa, le leggi dello spettacolo dei ricchi, belli e intelligenti per i poveri, brutti e scemi impongono che i 20 milioni li si regali alla svelta, a ritmi musicali, perché meno en passant si è e più si perde in signorilità. Finalmente, alla quinta o sesta telefonata vana, qualcuno alza la cornetta. Una voce di donna dice un sì interrogativo e Mara Venier si illumina d'immenso. Entusiasta di sé dice forte: «Sono Mara Venier a Domenica Inn!» Dall'altra parte si sente un nitido «Non mi interessa!» e la cornetta si riattacca. Sbigottimento, stupore mascherato di irrefrenabile allegria, risate, gesto di compatimento, applausi per Mara Venier, perché il suo pubblico ne sa lenire la mortificazione. A questa plenipotenziaria delle animi semplici non passa neppure per la capa che possa esserci sia qualcuno che non sappia né chi sia Mara Venier né Domenica Inn, o qualcuno che non voglia saperlo, o addirittura, udite udite, qualcuno che con Mara Venier e o con Domenica Inn non voglia averci proprio nulla a che fare, perché che so, morire senza averne usmato il seno ansante di entrambe, neppure in contumacia, rientra nei suoi più fulgidi e ottimistici programmi. Io l'altro giorno telefono ad uno che conosco poco, ma con cui scambio due parole un giorno sì e uno no, e dico: buongiorno, sono Felice Accame, sa quello che abita... Lei no, considera già il proprio nome come il più festoso e rassicurante dei saluti, la propria identità come un dono di evidenza cosmologica, la propria petulante presenza nei domicili altrui come un dato irrinunciabile ed apodittico dell'unica realtà sociale che conta, e si autoratifica impudentemente come interlocutrice privilegiata e privilegiante di ogni interlocuzione che meriti rispetto. Un dio biondo, florido e prodigo che può interrompere il flusso delle vite altrui, quello che sta per aprire il rubinetto del gas, quella che ha appena preso un ceffone dal marito la cui squadra del cuore ha perso in casa, quelli che non si parlano da mesi o che parlano da soli perché proprio non sanno con chi poter parlare, porre le domandine facili, dispensare premi o castighi e, ritornando nel proprio paradiso di gettoni d'oro, lasciare che le cose continuino come prima. Ha avuto il coraggio di adombrarsene questa signora. È vendicativa come un dio incavolato nero, sarcastico e astioso. Ecco, ha chiesto a voce alta, più per condannare che per sapere, dov'è che ho telefonato? A Modena. Strano, di solito a Modena sono così simpatici. Riversando quindi tutta la sua bile. La signora aveva sicuramente qualche problema, poverina. E via avanti con le telefonate, incidente chiuso, tutte a lei capitano, attorno a sé avrà di certo trovato qualcuno tanto verme poi da consolarla. Grazie signora di Modena, lotterò al tuo fianco. Che la televisione non perdoni, che non conceda scampo a nessuno che voglia evitarla, è anche dimostrato dalla natura della domanda che l'impudente Mara Venier aveva in serbo, insieme ai 20 milioni non suoi ma nostri, per la risposta. Con perfetta autoreferenzialità, chiedeva qual era il titolo del film che per l'appunto era stato reclamizzato qualche ora prima durante la sua trasmissione. E così lo spettatore tanto mansueto da considerare come legittima l'eventualità di essere lui l'abbonato telefonico visivo prescelto, viene educato alla fedeltà e viene a sapere che in grazia di ciò, e soltanto in grazia di ciò, può acquisire l'unica competenza a cui nella vita corrisponda un premio. Non può cambiare canale, ma al punto in cui è, ha come la sensazione che questo ormai è il male minore, che in altri canali non troverebbe che altri insopportabili inferni.